Hall, questa è Salisbury Hill con la quale vi do il ben ritrovati, un saluto e un abbraccio a tutti da Edo Rossi, un abbraccio e un saluto naturalmente a tutta la Rock Family là fuori, due ore per stare insieme in un appuntamento, quello di oggi, venerdì 9, come dire, un po' insolito, anche se poi alla fine di venerdì più o meno va sempre a finire così, no? Vabbè, ci saranno i vari trisdassi e tutto, ne parliamo dopo. Questa è Shot the Sheriff, la sua reinterpretazione di questa storica canzone di Bob Marley, che tra l'altro diede ad Eric Clapton una nuova linfa vitale, capitò in un momento incredibilmente buono per Eric Clapton, che si era reso, come dire, protagonista di frasi al limite del razzistico, non so se si dice così, comunque è stato un po' razzista nelle sue, come dire, dichiarazioni, soprattutto con verso i colored, il caso di dire, verso i neri, e in realtà con questa I Shot the Sheriff fece pace con la comunità, considerata appunto il fatto che riprese questa canzone dello storico Bob Marley, icona per molti versi della comunità, diciamo black, anche se non è esatto il termine. Siete su Rock FM, la voce è quella di Edo Rossi, mi raccomando, l'appuntamento importantissimo, quello di questa sera, che ci vedrà protagonisti sul palco di Piazzetta Liberty a Milano con la Rock FM All Stars Band, con il nostro farewell tour nella tappa milanese. Mi raccomando, ci vediamo lì, non mancate, insomma snoccioleremo come al solito del buon rock and roll, naturalmente a partire dalle 21. Sta partendo un altro Tris Dassi, tre grandi successi in fila senza interruzioni, non prima però di avervi ricordato l'email edo@rockfamily.it oppure i vari myspace.com/edorossi oppure Rock FM Band. Dicevo, saranno gli Outlaws, i fuorilegge, ad aprire questo Tris Dassi con la loro Ghost Riders in the Sky. Ghost Riders in the Sky. She really gets me high. Pamela Lamb, you know that's no lie. Pamela Lamb, she's so rock steady. Pamela Lamb, man, she's always ready. Pamela Lamb, whoa, back pity. Pamela Lamb, whoa, back pity. Pamela Lamb. Sempre a chiudere i nostri Trisdassi, lui e Leon Russell. La canzone era Lady Blue. Facciamo una sterzata musicale, così si diceva qualche tempo fa, con gli Yes. Qua da Rock FM andiamo a riascoltare And You and I. Erano gli Yes con And You and I, riascoltati qua da Rock FM. Vi ricordo www.rockfamily.it, vi ricordo il mio blog edorossi.blogspot.com, vi ricordo l'appuntamento di questa sera, ve lo dirò veramente allo sfinimento, legato appunto alla Rock FM All Stars Band. Poi comunque ci sarà anche un Tris Dassi nel, un Tour de Force nel quale magari ne parliamo ancora. You might know of the original sin. You might know how to play with fire, but did you know of the murder committed in the name of love? Yeah, you thought we'd have been dead. Dream on, white boy, white boy. Dream on, black girl, black girl. Wake up to a brand new day. a time when I did not care. And there was a time when the facts didn't stare. There is a dream, and it's held by many. Well, I'm sure you had to see its open arms. Watch.